è uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo. State ascoltando Rock FM, la colazione, come annunciato dal collega Chuck Bird, servita dall'Ariele, Freak Anthony e il nostro regista Spadino. Ci mettiamo dentro pure Mister Trombetta, ci infiliamo a distraforo il nostro stegista impagabile impagato Isaac Rizzi, ci buttiamo dentro la redazione, ecco servita la colazione del mattino, la colazione che dà soefazione. Ah ragazzi, gna fate o gna fate? Martedì 6 novembre, riprendiamo! Pane, burro e rock and roll. Puntata 123. La tua colazione rock. Fino alle 9. Pane, burro e rock and roll. Vi tireremo per le orecchie fino alle 9 del mattino. Restate con noi. Sorprese a go go. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. L'arduo compito di parlarvi in questo momento della giornata, così duro, così difficile. Amici ed amiche con la carognetta, tenteremo di limarvela noi. Tra l'altro mi rifaccio a una mail di complimenti, tra l'altro sempre graditi, ricevuta ieri mattina. Pane, burro e rock and roll è stato definito un programma garbato e noi supportiamo la possibilità di essere un programma garbato, anche se non ci crediamo tantissimo, sarò onesto. Però quello che scrivete voi, per noi è Vangelo. Le coordinate che già si riempiono dei vostri primi messaggi, che miracolo avervi già attivi a quest'ora della giornata. Tenete duro perché abbiamo un sacco di buona musica, anzi un sacco e una sporta di buona musica, e quest'oggi si comincia alla stragrande. Sentite che roba! Bop, Ramones, Let's Go, dedicata particolarmente a quelli che hanno la radio sveglia e li sveglia con pane, burro e rock and roll. Ciao amici nel lettino, ancora caldo. Il consiglio dell'Ariele è seguire quello che dicono i Ramones. Ehi, hey, oh, let's go, giù dal letto, subito. Non state lì a pensarci, è inutile. vi aumenta solo la carogna. Alzatevi in piedi al volo e si affronta questo martedì mattina con coraggio. Devo confessarvi che questa prima parte della trasmissione è quella che preferisco, perché è quella dove ancora tutto può accadere, è quella ancora proprio i primi 5, 6, 7 minuti di diretta, dove ho ancora la speranza che riuscirò a fare tutto quello che c'è scritto su questa scaletta che la redazione con tanto sudore mi ha preparato. Poi già tra una decina di minuti andrà tutto in pantano, anche perché tra poco arriva anche Roberto Fricantoni, se le ferrovie dello Stato permetteranno, questo nuovo miracolo, l'arrivo da Bologna del nostro maestro di riferimento. Poi man mano che i minuti passano prendo coscienza del fatto che sarà inutile tentare di fare quello che ci siamo prefissati e gestiremo l'attimo, come solo noi sappiamo fare. Un lampione crepuscolare che continua ad assisterci in questi primi minuti e poi come mi piace poter dare le coordinate. Questo è uno dei momenti, insieme alla sigla, che è fisso. Oh, un'abitudine. E io ve lo devo dire, sono un po' un abitudinario, quindi mi piace. La casella di posta elettronica, che è ariel@radiorockfm.com, oppure un numero di SMS, 335-100-7777. Qualcuno di voi, qualcuno timido, qualche radioascoltatore passivo, si chiederà: ma perché devo star qui a perdere tempo a scrivere a pane, burro e rock and roll? Perché siamo una squadra, fratello. Siamo la famiglia del rock and roll. E ti vogliamo al nostro fianco. Eh? Era molto... Non chiederti cosa pane, burro e rock and roll può fare per te. Chiediti cosa tu puoi fare per pane, burro e rock and roll. Qui non si butta via niente, eh? Ogni idea è preziosa. Come la buona musica. Ah... Che effetto vi fa questa adesso, eh? Abbiamo iniziato, siamo schizofrenici oggi. Abbiamo iniziato belli cattivi e vi riprendiamo da pelle d'oca. All'alba delle 7 e 7 minuti primi, pane, burro, rock and roll prosegue con i Pink Floyd. Hey you, buona giornata. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Finalmente varca la soglia degli studi di Rock FM, entra, prego, entri, non le stavo dando del tu, entra nel senso, l'ha capita? Cioè entra sì. Il Fricantoni, ma entri lei. Certo. Buongiorno. Io fingo di capire, ma sono certamente su una stazione parallela. Roberto Fricantoni, urli il suo buongiorno alla gente. Buongiorno, ecco. Da un altro pianeta, da una situazione parallela. Come trasformare un anonimo martedì 6 novembre in un vero 6 novembre da rocker? Come? Facendo il manco del giorno che fu. Ah, naturalmente, martedì 6 novembre del 1869. Sì. Perché lo ricordiamo? Lo ricordiamo perché a New Brunswick, nel New Jersey, si disputa la prima partita ufficiale di football americano tra l'università di Rutgers e quella di Princeton. Ancora una volta, la nostra religione, lo ricordiamo, ci impedisce qualsiasi tipo di sport. E quindi non supportiamo la nascita del football americano. Americano, esatto, che c'è particolarmente inviso. Credo però che alla nostra religione piaccia parecchio la prossima notizia. Era il 6 novembre del 1928 quando gli svedesi danno il via alla tradizione di mangiare i pasticcini di re Gustavo Adolfo per commemorare il re. Quanti se ne è pappati dei pasticcini di re Gustavo Adolfo? Tra l'altro due nomi, Gustavo o Adolfo, che si decidano questi svedesi. Quanti se ne è mangiati nella sua vita? Guardi, li conosco perfettamente, i pasticcini, diverse centinaia di migliaia. Chiudiamo invece con una notizia radiofonica. Era il 6 novembre del 35 quando, davanti alla sezione newyorkese dell'Institute of Radio Engineers, Edwin Armstrong, ovvero no, Edwin, no, alla freak, la prego. Mi è scappato il mic, mi è uscito il mic. Purtroppo non rientrerà. Traduca, la prego. Istituto newyorkese. Sì, newyorkese. Per l'ingegnerato della radio. Edwin e Edwino Braccio Forte o Forte Braccio. Viene presentato il lavoro A Method of Reducing Disturbance in Radio Signaling by a System of Frequency Modulation, ovvero un metodo per ridurre i disturbi nei segnali radio utilizzando un sistema di, colpo di scena, attenzione, modulazione di frequenza, si la famosa l'FM. Oh, non saremmo potuti esistere perché si sarebbe chiamata Radio Rock AM. Ma infatti, siamo onore FM. all'FM. Viva. Due letterine magiche, e abbasso FM. E abbasso i frusci delle radio. Vero? Singing, I love rock and roll, sweet like a diamond in the jukebox, baby. I love rock and roll, smoking, taking time. adoro il rock and roll. Io amo il rock and roll. È John Jett a cantarvela, a suonarvela nella diretta di quest'oggi. Ci sono, getto nel panico i radioascoltatori con il numero delle puntate. Adesso vi spiego come funziona. Vi spiego qualche meccanismo. No, si è spento il lampione crepuscolare. No, maledetto. Alle 7:17. Un programma che si avvale dell'ausilio concreto dei suoi radioascoltatori e delle sue radioascoltatrici. Quotidianamente sentiamo anche amici ed amiche nuove, ma alcuni restano fissi perché hanno fatto una promessa a se stessi e alla nostra trasmissione. Uno di loro si chiama Carlo, è qui di Milano, dalla città dalla quale vi parliamo, ha una tabaccheria, ma soprattutto cercherà di farci diventare ricchi vincendo il lotto. Ciao Carlo. Ciao, eccoci qua. Allora, grandissimo Joan Getto, intanto. Che hai in vinile? Che ho in vinile, un 45 giri, di cui ho fatto i salti mortali per riuscire a trovarlo. Usato, l'ho pagato una cifra folle ai tempi, veramente. Questo a testimonianza del fatto che gli amici e le amiche che mandiamo in onda non è che li raccattiamo dalla strada a caso, è gente che ne sa, capito? Cioè, se non avete un vinile di John Jett non vi mandiamo in diretta, è una regola da contratto. Allora Carlo, in fuori onda, prima di dare i numeri di oggi mi facevi una domanda, cioè dicevi: ma perché quando parli del numero delle puntate ne dici due? Esatto. Proverò a rispiegarlo, perché è un po' emalata la cosa. Per esempio, oggi è la puntata 45 e 123. Perché 123 se contiamo da marzo scorso, quando proprio è nato Pane, Burro e Rock and Roll. Da settembre invece, quando abbiamo ripreso, è la 45. In realtà, Carlo, ti faccio una promessa: da domani smetto di dire, cioè le contiamo tutte e basta. Ok, mi sembra, perché altrimenti vado in confusione, non capisco più niente. Hai ragione. Secondo me ci sei rimasto sotto da ieri, che c'era 44-122 e tu con i numeri sei andato fuori. Precisamente, io me li ero già segnati, però poi ho detto: mascherina, ti conosco. Riassumo brevemente: Carlo, avendo una tabaccheria e sapendone un sacco di lotto, di cabala, di numerologia e di smorfia, ci regala un paio di numeri due volte alla settimana. Questi numeri non escono mai. Una volta sono usciti. Sì. Noi non li avevamo giocati, ma sono usciti. Cioè, ho giocato il terno e basta. E praticamente ho fatto vincere tutti i clienti che giocano con una più coerenza della mia. E si giocano praticamente e anche noi ambo, a differenza di ma me. Ma è giusto, no, perché siamo rock e ce lo meritiamo. Quindi anche quest'oggi un ambo che non uscirà mai, prego. Sì, io direi a questo punto di giocarci le frequenze di Rock FM. Ma giochiamocele, dai. Ci hanno portato bene. Quindi questa volta però giochiamo su Genova. Okay. Quindi do anche la città, a differenza delle altre volte. Bravo. E siccome la frequenza è 87,55, ci giochiamo appunto l'87,55 su Genova. Perfetto. Ce n'è un'altra, perdonami, per essere filologici, fammi entrare nel sito della radio perché non me ne ricordo a memoria. Genova neanche un'altra? Neanche un'altra, esatto. Cioè, allora 87,55 e poi 87,75. Io ci infilerei anche il 75, Carlo. Dai, esatto, a sto punto ci spariamo il terno come l'altra volta, se diventiamo ricchi bene, se no pazienza. Terno secco su Genova, se diventiamo ricchi si smezza. Esatto. Ti lascio ai tuoi clienti che rumoreggiano in sottofondo e ci sentiamo domani per la notizia che ci dà. Sai, chiudendo velocemente, dovremmo chiedere aiuto a quei radioascoltatori che hanno vinto la possibilità di andare a vedere le Zeppelin, perché quelli di culo ce ne hanno. Porco cane, sono tre. Li raccatto in settimana, vediamo se ci danno qualche numero loro. Va bene, ok. Quelli dei voli d'aereo, magari con cui andranno là, che avranno disdetto, o magari il civico dell'albergo. Tu sei un professionista, Carlo, e si sente. Ciao! Ciao, arrivederci, ciao. Non ho veramente parole. Si tratta di professionisti, di radioascoltatori professionisti. Sì. Le altre radio non ce le hanno. Le altre radio. Oh, c'è Andrea della concorrenza, è una settimana che non lo sentiamo, quello lì starà ascoltando qualcosa, anziché noi, bisogna sentirlo. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey,

see the morning light, color in your face so dreamily. So don't you go and say goodbye, you can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave, lay down Sally, and rest in my arms. Don't you think you want someone to talk to?